Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo anche oggi dell'avvicinarsi alla manovra, avremo ospite il vice ministro dell'economia Morando. Perché? Perché il governo ha frenato per le parole dello stesso vice ministro su un'ipotesi di riforma delle pensioni, anche se oggi il sottosegretario dell'economia Baretta ha detto no, attenzione, stiamo forse lavorando a una riforma delle pensioni, ma in realtà ha detto chiederemo un contributo ai redditi alti, vi sarà forse una stretta alle detrazioni per chi guadagna tanto, e poi ha chiarito, secondo me una pensione netta di 3.500 euro può essere già considerata alta nel novero dei redditi più alti che medi. Altri esponenti del governo frenano, e di molto, lo ha fatto anche il Presidente del Consiglio, sulla un'eventuale manovra che dovesse colpire le pensioni, mentre resta aperta l'ipotesi di, diciamo, non dico blocco, ma quantomeno grosso sacrificio sui rinnovi dei contratti del pubblico impiego. Anche qui abbiamo detto ieri, è vero che ci sono tantissimi dipendenti del pubblico impiego, parlo delle forze dell'ordine ma anche degli operatori sanitari e quant'altro, che guadagnano poco e hanno stipendi bloccati da anni. Va anche detto però complessivamente che il pubblico impiego non ha conosciuto il massacro di posti di lavoro che ha conosciuto il settore privato. Abbiamo una disoccupazione a livello record e in particolar modo quella giovanile, e la disoccupazione si è tutta scaricata, o meglio la crisi si è tutta scaricata sul fronte occupazionale sul settore privato. E quindi bisogna anche stare attenti, perché è verissimo che ci sono dipendenti e funzionari del pubblico impiego con stipendi bloccati e bassi, ma è anche vero che nel settore privato non ci sono solo stipendi bloccati e bassi, ci sono stipendi che sono saltati. Non si può dire ma come mezzo gaudio, ma bisogna tener conto di tutta la situazione del paese, non solo del caso specifico. Di questo, dicevo, parleremo con il vice ministro all'economia. Parleremo anche invece dei danni che stanno arrivando all'agricoltura italiana, non solo per un'estate che al centro-nord non è mai praticamente arrivata, 1 miliardo di euro di danni, ma non i danni dovuti come in anni passati al maltempo, perché sì, c'è stato pure quello, ma come abbiamo raccontato sono danni dovuti anche a un'estate che, non essendo mai partita, ha ridotto sensibilmente il consumo di frutta e verdura. Nel caso specifico può sembrare una cosa così marginale, ma ha significato un calo brusco dei prezzi, oltre che un ritardo in alcune produzioni, 1 miliardo di danni stimati da Confagricoltura. E oggi addirittura anche il mondo dell'enologia parla di una vendemmia che non si potrà definire grande annata, nulla è perduto, ma è pressoché impossibile parlare di una grande vendemmia per il 2014, sempre per via del clima. Oltre al clima però ci si è messa anche l'Ucraina, perché sappiamo che c'è le cosiddette ritorsioni russe vanno a colpire anche il settore agroalimentare. Oggi la Commissione Europea ha adottato misure d'emergenza a sostegno delle pesche e delle nettarine per un totale di 32 milioni di euro, di cui 30 milioni serviranno per ritirare la frutta dal mercato e 3 per la promozione. Di questi ultimi l'ammontare maggiore, 1.300.000 euro, quelli per la promozione, va all'Italia, che è uno dei principali paesi produttori. E faccio notare che domani il ministro dell'agricoltura Martina sarà ospite del nostro programma alla mattina, e mi riferisco a Spunti di Vista. Poi la borsa, come sempre, oggi non c'è vicenda sul fronte Luxottica, però ha recuperato, anzi il titolo praticamente in parità adesso dopo il calo di ieri. Ci sono molte notizie che riguardano invece banche e A2A. A2A continua a correre, il più 7,70% in questo momento, il titolo è migliore tra quelli a maggiore capitalizzazione, perché c'è un recupero di tutto il settore delle utilities, ma che molto era calato in queste settimane, ma su A2A si prevede che nel decreto sblocca Italia ci possano essere misure a favore dell'energia. E poi lo spread che continua a mantenersi nonostante le critiche e gli allarmi che arrivano dalla stampa anglosassone, continua a mantenersi su ottimi livelli a 157-155 punti, avvantaggiano le società indebitate. Ragionamento analogo anche per quello che riguarda la Popolare di Milano e i bancari in generale. Per cui proprio Milano più 6,40%, Intesa San Paolo più 3,90%, UbiBanca più 3,60%, Banco Popolare più 3,30%, Azimut più 3% e Unicredit più 3%, Mediobanca più 2,60%. Dicevo invece che tra i titoli si segnala anche Telecom Italia più 2,40% e Fiat all'indomani del termine ultimo per esercitare il diritto di recesso guadagna comunque il 2% in borsa. Di negativo non c'è praticamente più nulla: Luxottica perde lo 0,1%, Moncler lo 0,25%, Wow Duty Free meno 0,70%. Domani però inizierà anche il vertice, anzi in realtà inizia oggi ed entra nel vivo domani, perché oggi arrivano i vari partecipanti. Mi riferisco all'appuntamento di Jackson Hole. Lo ricordo, una località montana del Wyoming. Dal 1978 la Federal Reserve di Kansas City organizza tradizionalmente un incontro tra i banchieri centrali di tutto il mondo, i ministri e anche economisti per discutere di economia globale. Saranno presenti sia il presidente, e domani parleranno ambedue, della Federal Reserve, Janet Yellen, e poi il numero uno della BCE, Mario Draghi. Ci sono state quest'anno diverse esclusioni eccellenti. Per esempio, molti banchieri, faccio l'esempio di Vincent Reiner di Morgan Stanley, John Hatzius di Goldman Sachs, Ethan Harris di Bank of America, non sono stati invitati. C'è stata una certa esclusione, molti l'hanno attribuita anche a un segnale che la Yellen vuole dare nei confronti di Wall Street, e quindi dire sono più interessate e mi preoccupo di più dell'economia reale americana che di quello che pensano i banchieri d'affari di Wall Street. Ma anche i grandi gestori di fondi, Michael Levy di Blenheim Capital non è stato invitato, e Meredith Whitney di Campbell Capital. Su questo si è preferito, lo ha detto la stessa Yellen, invitare esperti di mercato del lavoro, perché quello sarà l'oggetto vero e proprio. Ne parleremo più avanti. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Economia internazionale. La Libia, dopo un anno, ha ripreso l'export di petrolio nella parte est, dopo un anno appunto di blocco a causa dell'instabilità del paese. La petroliera italiana Maria Bottiglieri è partita dal terminal infatti di Sidra e opera per conto di una compagnia austriaca e diretta al porto di Trieste. Un'altra petroliera effettuerà un trasporto per conto di Tamoil, sempre via Italia. Sono le prime che tornano a esportare il petrolio dell'est della Libia. Sempre sul fronte dell'economia internazionale invece rallenta la crescita del manifatturiero in Cina, secondo il dato del Purchasing Manager Index PMI diffuso dalla banca anglo-cinese HSBC. Ebbene, tutto l'andamento è sceso di un punto, è il ritmo più basso per quello che riguarda la crescita del manifatturiero cinese da tre mesi. È praticamente di pochissimo, a 50,3 punti sopra il livello che è considerato il livello minimo, per non parlare di contrazione dell'attività. E intanto, sempre in Cina, è stata creata la prima società privata di investimenti a livello nazionale, con la benedizione chiaramente del Consiglio di Stato, il governo popolare centrale. Ha cominciato le sue attività la China Minsheng Investment, ha un capitale di 6 miliardi di euro ed è fondata dalle più importanti 59 società private cinesi che rappresentano diversi settori: macchinari, metallurgico, information technology, produzione ambientale, energia, e-commerce, e non possono per legge possedere più del 2% della nuova società. È una società che opererà come un fondo di private equity, quindi entrerà, comprerà altre aziende o come maggioranza o come partecipazione. Prima di questa però l'unico fondo di investimento a livello nazionale era solo quello sovrano, quello dello Stato cinese, il China Investment Corp. A dare un buon impulso alle borse oggi sono stati anche i dati sul superindice economico americano, che a luglio è salito lo 0,9%, ben al di sopra delle attese degli analisti, che lo stimavano in un più 0,6%, e anche i dati sulle richieste di sussidi di disoccupazione in America sono state migliori delle attese, sono calati di 14.000. E un dato migliore, appunto, scendendo sotto quota 300.000, 298.000. Gli analisti si attendevano un dato decisamente peggiore. Dall'America arriva la notizia anche della multa record che ha patteggiato sostanzialmente la Bank of America con le autorità americane sulla vicenda dei mitici, si fa per dire, mutui subprime, quelli da cui si è poi originata tutta la crisi, i mutui dati da americani che erano ad alto rischio, sotto il livello prime, subprime, quindi sotto un livello accettabile di garanzia, eppure venivano concessi, l'abbiamo spiegato molte volte, perché tanto il rischio veniva spacchettato e rivenduto a altri soggetti, creando una catena tremenda, una catena di Sant'Antonio tremenda, che poi è saltata per aria nel 2008. Ma dicevo, Bank of America ha patteggiato una multa da 16 miliardi e 650 milioni di dollari per chiudere tutta la vicenda. Pagherà in contanti 9 miliardi e 650 milioni, mentre con i restanti 7 miliardi verranno risarciti i consumatori. Una notizia che potrebbe far discutere la pubblica oggi il Financial Times. L'esame, veniamo all'Europa, della Banca Centrale Europea su come vanno le banche dell'area euro costerà circa 500 milioni, 500 milioni di euro, che andranno quasi tutte nelle tasche dei consulenti. Perché? Perché secondo lo studio del Financial Times, la BCE e 8 organi nazionali di controllo, comprese le prime 5 economie dell'area euro, spenderanno 487 milioni di euro per pagare le società di consulenza che affiancano Francoforte nell'esame avviato sul settore bancario in vista della vigilanza unica della Banca Centrale Europea sulle principali banche europee. Restando in Europa, in Germania l'andamento dell'occupazione continua ad avere un ottimo dato, ossia il numero di occupati in Germania è il secondo più alto come record da quando esiste l'unificazione tedesca, quindi dal 1989. Il numero di occupati è salito di quasi un 1% nel secondo trimestre a 42 milioni e mezzo di persone. E la cosa che sorprende è che in Germania le imprese incontrano sempre più difficoltà a trovare giovani preparati e disposti a iniziare un apprendistato. Nel 2013 circa 80.000 offerte di apprendistato sono rimaste inevase, e secondo il presidente dell'associazione della Camera di Commercio dell'Industria Tedesca, Eric Schweitzer, sono soprattutto le grandi imprese a ravvisare problemi. Uno dei maggiori ostacoli lamentati dalle aziende riguarda la carenza nella formazione dei diplomati, in particolare in materie quali la matematica e la conoscenza della lingua tedesca. E se Berlino oggi, oltre al buon dato sull'occupazione e anche al buon dato sull'attività manifatturiera, che rallenta ma meno del previsto, scende da 55,7 a 54,9 punti, può comunque, non dico dormire sonni tranquilli perché il raffreddamento dell'economia tedesca si è visto, ma ha dei dati che non permettono di parlare di una difficoltà, di un arresto della Germania. C'è invece Parigi, che viene definita dalla stampa anglosassone, lo ricordavamo in questi giorni, il malato cronico d'Europa assieme all'Italia. Ebbene, oggi il presidente francese François Hollande, in un'intervista a Le Monde, è tornato sul dibattito e sulla polemica sul rispetto dei parametri europei e ha detto sostanzialmente: attenzione, non chiedo che si cambino le regole, chiedo che vengano applicate con tutte le flessibilità previste dai trattati in casi di circostanze eccezionali. E aggiunto Hollande: non è una questione bilaterale tra noi e la Germania, si tratta di un dibattito europeo. Considero che il ritmo del risanamento dei conti pubblici debba essere adattato alla situazione eccezionale che attraversiamo. E poi, interpellato su un possibile asse tra lui, cioè Hollande, e il premier italiano Matteo Renzi, Il presidente francese ha annunciato che la settimana prossima a Parigi si terrà una riunione dei socialdemocratici per far convergere le nostre posizioni, quindi ha confermato l'esistenza, se non di un asse vero e proprio, del tentativo di creare un asse con Renzi e con i socialdemocratici europei. E faccio notare che comunque nel secondo trimestre del 2014 la Francia ha registrato una crescita nulla, zero rispetto ai tre mesi precedenti e meno 0,1 rispetto all'anno prima, tant'è che hanno dovuto rivedere la crescita prevista per quest'anno, che non andrà oltre lo 0,5%. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. E allora restiamo in tema di conti pubblici, mentre la borsa si avvia a chiudere sui massimi, quasi 2% di rialzo. In tema di conti pubblici, anche perché, come già ieri ci ha anticipato appunto Marco Rogari, il Sole 24 Ore oggi riporta il fatto che per avere una manovra finanziaria che stia sotto o al 3% del deficit PIL, mancano rispetto alle indicazioni iniziali 4-5 miliardi di euro. Perché mancano? Perché, lo ripetiamo, quando il PIL cala più del previsto o cresce meno del previsto, il rapporto deficit-PIL aumenta e quindi tocca, non dico fare una manovra correttiva, ma trovare più risorse entro metà ottobre, quando deve essere varata la legge di stabilità. E allora vediamo di parlarne con chi rappresenta il governo di Matteo Renzi. È vero che nelle prossime settimane l'Istat dovrà elaborare le nuove stime del PIL, comprendendo alcune voci finora rimaste escluse, le spese in ricerca e sviluppo e poi quelle famose, prostituzione, stupefacenti, contrabbando, spese militari, quindi l'economia illegale. Attenzione, perché a noi è stato spiegato in maniera abbastanza chiara dal responsabile dell'Istat che questo non porterà un grosso vantaggio, perché vengono riparametrati tutti i PIL precedenti, per cui non è che tu improvvisamente scoprirai che quest'anno, grazie alla prostituzione e alla droga, l'Italia cresce invece che essere stagnante, perché il raffronto si fa sugli anni precedenti e vengono riparametrati tutti. Comunque, secondo altri istituti, vi potrebbe essere invece un effetto sull'andamento del PIL complessivo, ma al di là dei decimali io vorrei concentrarmi sulla manovra e su quanto è circolato in questi giorni a proposito di pensioni e blocco degli stipendi di pubblico impiego. Ecco perché ringrazio per averci raggiunto in collegamento il vice ministro all'economia Enrico Morando. Buonasera. Buonasera. Dunque, viceministro, in questi giorni abbastanza ferragostani per alcune cose, però si sono accavallate molte dichiarazioni, a partire da quelle del ministro del welfare, poi in parte corrette, oggi sui giornali il sottosegretario dell'economia Baretta, sul tema innanzitutto pensioni e blocco dei rinnovi e degli aumenti nel pubblico impiego, che hanno scatenato molta apprensione anche tra i nostri ascoltatori e soprattutto nei sindacati. Anche perché il tema pensioni alte, pensioni d'oro, è molto labile, nel senso che oggi Baretta ha detto: beh, 3.500 euro di pensione netta per me è già nella fascia alta, nel passato abbiamo sentito anche la cifra di 2.000 euro netti, c'era chi invece aveva ipotizzato che ci si limitasse, come nella manovra del governo Berlusconi, le pensioni sopra i 10.000 euro netti. Allora, toccherete le pensioni e che cosa intendete, se lei l'ha capito, per pensioni alte? Guardi, io ho detto in questi giorni e ripeto ciò che per la verità ha detto anche il Presidente del Consiglio, e cioè noi abbiamo una intensa stagione di riforme strutturali da realizzare davanti nell'autunno. Queste riforme sono quella della giustizia, perché con una giustizia civile in queste condizioni noi non riusciremo ad attrarre capitali ad investirsi in Italia, e abbiamo bisogno invece che lo facciano, e perché un'economia non può diventare competitiva se ha una giustizia che non funziona come non funziona la giustizia civile in Italia. Il lavoro, sostanzialmente, per come la penso io, al fine di introdurre finalmente quel contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti che deve diventare la forma normale, tra virgolette, di assunzione, la pubblica amministrazione, perché dopo il decreto Madia abbiamo bisogno di una legge delega che vada più nel profondo nel ridisegnare i confini e le funzioni dello Stato, e il fisco, perché abbiamo bisogno di realizzare molto più rapidamente di quanto non si fosse pensato in un primo tempo i decreti legislativi delegati dalla legge, dal Parlamento, attraverso la legge delega di cui contenuto gli spettatori conoscono. Ora, in una stagione nella quale noi dobbiamo realizzare tutto questo, per di più dobbiamo fare la sessione di bilancio molto impegnativa 2015-2018, attraverso la quale, tra l'altro, definire una soluzione stabile per quello che riguarda il cosiddetto bonus 80 euro, che intanto otterrà i suoi effetti in termini di aumenti di consumo, in quanto sarà garantito che ci saranno gli 80 euro anche nel 2015, nel 2016 e nel 2017. La mia opinione è che in questa fase andare attorno al tema delle pensioni sia un errore serio che non faremo, perché ci distrae dagli obiettivi fondamentali. La riforma della previdenza pubblica è l'unica riforma strutturale che in questo paese è stata più riprese dal 95 in poi realizzata, arrivando poi col provvedimento Fornero al suo compimento col contributivo pro rata temporis applicato a tutti gli iscritti alla previdenza pubblica. Quindi la mia opinione è che di questo tema in questa fase non se ne parlerà. Non si parlerà neanche del blocco degli aumenti della pubblica amministrazione, che ha molto agitato il pubblico impiego, che ha molto agitato i sindacati ieri, l'altro ieri? Ma guardi, questo è un tema diverso. Noi sappiamo che abbiamo alle spalle una lunga fase di blocco della contrattazione nel pubblico impiego, sia a livello nazionale sia a livello locale, cioè per ogni singola amministrazione. È una fase difficilissima quella che attraversa il paese, la situazione di blocco degli rinnovi contrattuali che si è determinata, salvo il fatto che ai lavoratori naturalmente sono state date le indennità per mancato rinnovo del contratto, ma solo quelle. Io penso che noi siamo in una fase nella quale non si può non tener conto della gravità della crisi e del fatto che i lavoratori privati hanno il loro posto di lavoro gravemente minacciato, per cui naturalmente la mia opinione è che si cercherà di rinnovare i contratti, saranno rinnovi caratterizzati da un regime di finanza pubblica difficile come quello che noi attraversiamo. Scusi, ma se ci arrivasse a un blocco dei rinnovi dei contratti di pubblica amministrazione, i sindacati hanno detto in maniera chiara che sarà un autunno caldo, cioè che reagiranno in maniera molto ognuno fa la sua parte. Io ho risposto alla sua domanda, certo. Io ho detto, io spero che ci siano i margini per poter arrivare ai rinnovi contrattuali. Si tratterà di rinnovi contrattuali caratterizzati da una finanza pubblica in situazione di particolarissima difficoltà. Non mi sembra di dire una cosa particolarmente originale. Non ho detto che ci sarà il blocco, che si perpetuerà il blocco. Ho detto che cercheremo di fare rinnovi tenendo conto del contesto di finanza pubblica difficile in cui siamo. Ecco, Vice Ministro, un'ultima domanda. Oggi su Sole 24 Ore Marco Rogari, come già aveva fatto i nostri microfoni ieri, ribadisce insomma che vista la mancata crescita o la crescita molto più debole del previsto, 0,2 invece che 0,8, alla manovra di stabilità, alla vecchia, quella che una volta si chiamava legge finanziaria, mancano 4-5 miliardi per restare almeno al 3% del deficit PIL, il vincolo europeo. Voi prevedevate una manovra da 17, adesso ne mancherebbero almeno 4-5 per arrivare a 22/23. Voi confermate 17 miliardi di euro dalla spending review e tra l'altro altre risorse arriveranno da costo più basso del debito pubblico per via dello spread basso e altri interventi. Però vorrei capire, 17 miliardi di euro dalla spending review se non sono tanti, e soprattutto se lei ha già in mente o comunque avete già discusso su come trovare i 4-5 miliardi aggiuntivi. Ma guardi, io sono ammirato della capacità di fare i conti di questi miei colleghi e analisti e così via. Io, diciamo molto più modestamente, penso che quello di cui si può essere ragionevolmente certi è che non ci sarà manovra correttiva nel corso del 2014, primo. Secondo, che la sessione di bilancio che si aprirà con la fine di settembre sarà una sessione di bilancio 2015-2018 particolarmente impegnativa, soprattutto perché la ricchezza nazionale, il prodotto interno lordo cresce molto meno, addirittura per ora non cresce affatto, rispetto a previsioni che invece erano più ottimistiche. Detto questo, la mia opinione è la seguente: se noi riusciremo a realizzare e stiamo lavorando per riuscire a realizzare la revisione della spesa secondo gli obiettivi che ci siamo dati, e cioè da 15 a 17 miliardi nel 2015 e da 30 a 32, 33 miliardi nel 2016, allora la sessione di bilancio dovrà prevedere queste soluzioni per quello che riguarda i risparmi da revisione della spesa, e il resto sarà relativamente facile da comporre, anche perché da adesso bisogna cominciare a passare dalle parole ai fatti circa l'attuazione di ciò che la legge di stabilità in vigore prevede, che non ha avuto mai concreta applicazione, e cioè il fondo che dovrebbe essere alimentato dai risultati strutturali in termini di aumento di gettito da lotta all'evasione fiscale per alimentare la riduzione della pressione fiscale sul lavoro e sull'impresa, a partire da quella copertura stabile degli 80 euro estesi nel 2015, 2016 e 2017, che secondo me è l'assillo fondamentale a cui dobbiamo guardare in questa fase. Il resto sono sinceramente diciamo tentativi di fare previsioni che è meglio rimandare per chi sta al governo, per gli osservatori, gli analisti naturalmente sono liberissimi di fare le loro considerazioni, ma per chi sta al governo adesso l'impegno è rendere realistiche le previsioni di successo nella revisione della spesa e nel lavoro di riduzione delle distorsioni dell'evasione fiscale, fare le quattro riforme di cui le ho detto e a quel punto avere una sessione di bilancio relativamente facile. Ma mi dica solo una cosa, perché siamo in conclusione: secondo lei i 17 o 15 miliardi, diciamo, di revisione della spesa sono realistici per l'anno prossimo? Assolutamente sì. Con le dimensioni della spesa pubblica e il suo particolare livello di inefficienza, a mio giudizio sono realistici. Grazie, grazie al Vice Ministro all'Economia Enrico Morando. Grazie a lei, arrivederci, buonasera. La borsa non sconta, guarda altre cose, guarda oggi ai dati americani: più 2% Milano, più 0,90 Francoforte, più 1,20 Parigi, più 0,30 Londra, e guarda ai dati americani, e domani guarderà anche a Jackson Hole, dove da oggi si incontrano i principali banchieri centrali del mondo, economisti, ministri dell'economia. Non sono stati invitati, rispetto agli anni scorsi, tanti banchieri d'affari di Wall Street. Non è che la cosa mi lasci, anzi, forse è un'idea corretta della Yellen, del neo presidente della Federal Reserve. Però prima di tutto, dicevamo, la borsa, come sempre con Radio Cori sulle 24 ore. Ciao Condine, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Che cosa sconta la borsa, che continua a crescere nonostante le incertezze sull'economia aumentino? Ma diciamo che comunque quando il PIL italiano è tornato in recessione, la borsa ha preso un bel rovescio. Quel giorno sì, però poi è vero che da un periodo, insomma, di correzione piuttosto importante, adesso un po' è risalita, insomma. Anche se comunque ricordiamolo, sono tutte sedute con volumi molto sottili. Sì, questo hai fatto bene a ricordarlo, cioè attenzione, perché siamo al 21 d'agosto, per cui insomma non è che su questo ci possa attendere chissà che volumi, chissà che investimenti. Però A2A più 8%, qui c'è l'ipotesi che nel decreto del governo vi possa essere qualcosa per le rinnovabili? Diciamo per la semplificazione del settore energetico. In realtà queste sono un po' delle, insomma, delle spiegazioni che si cercano di dare al rally improvviso del titolo di oggi. Oggi, se andiamo a vedere un po' il listino, sono tornati a crescere tutti i titoli che erano stati penalizzati nelle ultime sedute, quindi le banche, in particolare le banche popolari, BPM recupera un 6,7% e soprattutto anche A2A che guadagna appunto l'8%, c'è un altro utility che guadagna molto e IREN che recupera addirittura l'8,6% fuori dal listino principale. Ancora tra delle banche, già accennavi tu, velocemente la classifica: Popolare Milano più 6,70, Ubibanca più 4,40, Banca Popolare più 4, Intesa più 3,30, Unicredit più 3,12, Mediobanca più 2,80%, Azimut più 2,80, la Pop Emilia Romagna anch'essa. Bene Telecom Italia più 2,50%, anche se non vi sono novità, mi sembra, sul fronte Francia o Spagna, col Brasile, diciamo, come terreno di contesa. Snam più 2,60, Tods più 2,30, Mediolanum più 2,30%. Vorrei un commento su Fiat e su Luxottica. Ma diciamo che sul fronte di Fiat sostanzialmente ieri si è chiuso il termine per diciamo l'esercizio del diritto di recesso legato alla fusione con Chrysler. John Elkann ha ribadito sempre ieri la determinazione comunque della proprietà a portare avanti l'operazione e diciamo che sostanzialmente oggi il mercato ha un po' premiato Fiat insieme a tutti gli altri titoli con un recupero del 2%. In realtà poi la verità su questa cosa, sull'operazione, se i recessi raggiungeranno quella fatidica soglia dei 500 milioni, si saprà soltanto nella prima settimana di settembre. Mi avevi chiesto di Luxottica. Sì, perché sì, oggi il titolo è più tranquillo rispetto a ieri, però comunque c'è un altro 0,40% a 39 euro per azione. Sì, diciamo che in una giornata in cui tutti sono cresciuti. Sì. Diciamo che ieri poi alla fine aveva iniziato a perdere il 7%, poi aveva chiuso anche con una perdita tra virgolette accettabile. E c'è ancora un po' di, insomma, c'è molta incertezza riguardo a quello che sarà il futuro amministratore delegato del gruppo. Ancora non si capiscono quelli che saranno i tempi di uscita, dell'eventuale uscita di Andrea Guerra, e quindi l'uscita la danno tutti per certa. Diciamo, sui tempi hai ragione che non si capisce se saranno a settembre, prossimo CDA o quant'altro. Sì, anche se c'è chi chiede a questo punto, visto una frattura, visto che gli stracci sono più che pubblici, chiede un intervento immediato e di chiarificazione per non lasciare il titolo e il gruppo così in balia delle ipotesi. E tra l'altro ho visto una smentita di Bob Kunz-Koncevic, nostro ospite alcune volte, è l'amministratore legato di Campari, ha detto: sono saldamente impegnato in Campari. Nessuna uscita invece, dice, nessuna conferma dall'azienda sull'uscita di Guerra. L'argomento potrebbe essere affrontato in un consiglio di amministrazione ancora da convocare. Migliori e peggiori in assoluto: Hi-Real più 24, Mondo TP più 9,80, IREN che è l'ex Iride più 8,60. IREN diciamo si muove come A2A, è la seconda multi-utility italiana. Anche qui c'è una scommessa sia sulla semplificazione del settore, sia ricordiamo che sono due titoli che comunque fanno capo a delle società indebitate, quindi diciamo la permanenza dei tassi su livelli molto bassi non può che insomma far piacere al mercato. Grazie a Ciao Condina, Radio Corriere del Sole 24 Ore. Allora, partiamo da Jackson Hole, o meglio dal luogo nella località montana di Wyoming, dove dal 1978 è tradizione che la Federal Reserve di Kansas City organizzi un incontro tra i banchieri centrali di tutto il mondo, ministri e economisti. La novità di quest'anno, lo dico subito, domani ci saranno interventi molto attesi di Janet Yellen, numero uno della Federal Reserve, e del numero della Banca Centrale Europea Mario Draghi. Ma dicevo, la novità di quest'anno è che sono stati invitati pochi banchieri d'affari. Molti banchieri di Wall Street non sono venuti, non sono stati invitati perché ha inviti Morgan Stanley con Vincent Ryart, Goldman Sachs con John Hatzius, Bank of America con Ethan Iris. Sono tra alcuni tra i celebri esclusi e anche grandi gestori di fondi di capitali. La scelta è, ha precisato la Yellen, è stata fatta in base al tema di discussione che è il mercato del lavoro, però diciamo, c'è un'indicazione anche molto forte di carattere politico a mio avviso, cioè preferisco occuparmi di lavoro, economia reale, che non di ciò che prevedono, vogliono, chiedono i banchieri di Wall Street. Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti, buonasera. Buonasera a voi. Viene letta in questo modo la scelta della Yellen, cioè di un Jackson Hole che sarà molto molto più attento a disoccupazione, crescita economica, squilibri dell'area euro, e anche quando la Federal Reserve inizierà a ridurre ulteriormente lo stampaggio di moneta? Sì, Jackson Hole si apre, diciamo, in un momento delicato per la Federal Reserve, in particolare anche per la BCE, ma visto che è la Federal Reserve che ospita, diciamo, il summit, il simposio di Jackson Hole, le attese sono anzitutto per Janet Yellen. Come dicevi, dovrebbe mantenere la sua preoccupazione per la salute del mercato del lavoro, che è il suo cruccio centrale, ribadito più volte davanti al Congresso, in discorsi accademici, in occasione dei vertici della Federal Reserve, e il tema scelto per la conferenza, il suo simposio di debutto come chairperson della Federal Reserve, è sicuramente indicativo, appunto, le dinamiche del mercato del lavoro. Una scelta che fa presagire ai mercati, agli analisti, comunque una IEL che rimane sostanzialmente colomba, che rimane attenta a un ritiro, se ci sarà, degli stimoli di politica monetaria, della politica accomodante a favore della crescita, molto cauto e molto attento a valutare, appunto, gli indicatori dell'economia reale, in particolare, appunto, l'occupazione. E su questo ci sono già alcune indicazioni su quello che potrebbe dire invece Mario Draghi, perché oltre ai dati americani c'è il tema anche e soprattutto di come si sta comportando l'Europa e delle misure che Mario Draghi potrebbe prendere a breve. Sì, c'è molta attesa per Mario Draghi, a sua volta al debutto come leader della BCE al simposio di Jackson Hole, perché negli ultimi anni non era venuto. Molta attesa proprio per quello che ricordavi, perché l'Eurozona è nuovamente in un momento difficile, un momento di chiaro affanno, quindi il suo discorso verrà analizzato anche come elemento di possibilmente di rassicurazione, sì, rassicurante per i policy maker e per i mercati sull'efficacia e sulle intenzioni delle manovre della BCE a sostegno di un'economia che appunto infanno. Domani e oggi arrivano tutti gli invitati, domani i due interventi più attesi, e ci risentiremo anche su questo. Grazie intanto a Marco Valsania in collegamento con noi da New York. Allora, domani il ministro dell'Agricoltura Martina sarà ospite a Spunti di Vista e quindi a Radio 24, però non bastava la crisi ucraina, il blocco di alcune importazioni che riguarda i generi alimentari e i prodotti dell'agricoltura. Oggi l'Unione Europea ha deciso misure d'emergenza a sostegno di pesche e nettarine per un totale di 33 milioni di euro. Parte di questi aiuti, buona parte, andrà proprio all'Italia. Non c'era solo il tema della cattiva stagione in Italia, nel centro-nord, che ha portato a cattiva produzione, ma anche a un calo, anche e soprattutto direi a un calo dei consumi della frutta fresca più consumata in questa stagione, con un conseguente calo dei prezzi della frutta. Le varie associazioni degli agricoltori hanno stimato un danno complessivo da 1 miliardo di euro. Adesso arriva anche la notizia che uno dei settori di punta del nostro della nostra industria agroalimentare, mi riferisco al vitivinicolo, che è anche uno dei settori di punta del nostro export, non conoscerà una grande annata. Le notizie si sono susseguite, insomma, se va bene sarà un'annata buona, ma sarà impossibile parlare di grande annata per la vendemmia del vino italiano. Volevamo chiudere in leggerezza per consolarci un po' pensando al vino, e invece anche qui ci sono dolori. Direttore di Assoenologi, Giuseppe Martelli, buonasera. Buonasera a lei e a chi ci ascolta. Allora, voi non avete avuto, chiariamolo subito, a differenza purtroppo di altri settori dell'agricoltura, penso appunto alle pesche, a tutte le produzioni della frutta tipica dell'estate, un danno economico dovuto al cattivo tempo e dovuto a un non acquisto, diciamo, dei prodotti per le temperature a dir poco miti. Però qui stiamo ragionando su che tipo di annata sarà. Va anche detto che comunque le piogge intense nel centro nord qualche problema ve l'hanno creato, prego. Sicuramente sì, nel senso che se per le uve base spumante, che giocano la loro qualità più che altro sul contenuto in acidi dell'uva stessa, quest'anno non dico che saltano di gioia, però sono abbastanza soddisfatte, per la stragrande maggioranza degli altri prodotti, in particolar modo per quelli più tradizionali e tipici, indubbiamente l'andamento climatico e l'andamento meteorico è sotto gli occhi di tutti e quindi dovremo lottare per poter avere un'annata degna di considerazione, anche se però i giochi non sono ancora fatti, siamo indietro con la maturazione, siamo indietro con la vendemmia e di conseguenza se il bel tempo ci aiuterà in questo fine agosto e poi per tutto il mese di settembre, sicuramente qualche punta di eccellente l'avremo anche quest'anno. Però abbiamo visto le dichiarazioni su vari siti, insomma anche lei dell'idea che non sarà, adesso possiamo dire, perché se parliamo con i produttori, giustamente il produttore dice sempre che il suo vino è buono. E però se, se parliamo con chi rappresenta invece gli enologi italiani, è chiaro che voi avete un giudizio anche più distaccato rispetto a chi il vino lo produce. No. Possiamo dire che non sarà una di quelle annate da tenere così in cantina? No, sicuramente non sarà un'annata da incorniciare, ci sono state delle annate decisamente più interessanti e come dice il proverbio, il bel giorno si vede dal mattino, questa volta invece dovremmo lottare per avere un eccellente pomeriggio in modo che la serata non venga praticamente distrutta, però diciamo che siamo abituati sempre a parlare di eccellenze. Ecco, quest'anno sicuramente sarà un'annata molto eterogenea, nel senso che anche in una stessa zona il medio si scontrerà con l'eccellente e diciamo così il buono si sconterà con l'ottimo. Diciamo che è un'annata difficile, dai, ecco, è così. Ecco, apprezzo l'onestà, ma mi dica una cosa, questo vale solo per il centro-nord, perché abbiamo visto che l'Italia per molti mesi e settimane è stata spezzata in due, quindi le produzioni del centro-sud avranno invece dati diversi, qualità diverse e ha pesato di più la temperatura o la pioggia, giusto per ignoranza? Ma purtroppo è inciso sia la temperatura che la pioggia, indubbiamente il centro-nord quest'anno è stato falcidiato in particolar modo dalle piogge, basti pensare che luglio ha avuto su 31 giorni 22 giorni di pioggia, il centro ne ha avuti 13, il sud ne ha avuti 9 e quindi da un punto di vista diciamo così di precipitazione sicuramente il nord è stato danneggiato e si trova diciamo in svantaggio rispetto alle altre due parti d'Italia. Per quanto riguarda invece le temperature, anche qui abbiamo avuto diciamo degli incrementi decisamente interessanti nel centro e ancora più nel sud, che però anche se la vite è una pianta robusta che non è che ha bisogno di tante attenzioni, in certe zone indubbiamente questi sbalzi di temperatura hanno lasciato il segno, in particolar modo attivando dei focolai di infezione che da un punto di vista tecnico spesso e volentieri è stato difficile anche limitare. Vabbè, io la saluto dicendo beviamoci sopra, e non è un invito a bere, ci mancherebbe, però domani, ripeto, il ministro Martina farà il calcolo invece complessivo dei danni agricoltura dovuti al maltempo e attenzione a quello che sta capitando con le ritorsioni russe per la vicenda ucraina. Intanto da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente. Focus Economia.